Salva Danaio di Deborah Rosciani. C'è da spostare una macchina, disc jockey. C'è da spostare una macchina, venga fuori qualcuno che da solo non ce la posso farcela. E basta. Buon anno da Salva Danaio, buon anno da Deborah Rosciani, eccoci alla prima puntata del 2013. E se il 2012 purtroppo lo ricorderemo come l'anno dell'IMU, degli esodati e di tanti altri problemi, il 2013 si presenta già con un biglietto da visita non proprio simpatico, e abbiamo cercato di darvene un'idea con la canzone che abbiamo scelto per introdurre il nostro tema di oggi. L'anno nuovo non si presenta bene per gli italiani perché porterà molti aumenti in vari settori che andranno ad appesantire le uscite delle famiglie italiane. Sarà un anno duro, sarà più salata la tassa dei rifiuti, aumenterà il canone RAI, la bolletta del gas ed è previsto un rincaro anche per alcuni servizi postali, per i francobolli. Notizie che non ci fanno certo piacere, ma che qui a Salva Danaio non possiamo non affrontare. Cercheremo in queste prossime settimane di accompagnarvi tra queste novità, cercando di renderle un po' più leggere nel nostro possibile. Gradualmente il nostro calendario di gennaio va riempiendosi di questi argomenti sui quali è utile essere informati, come vi dicevo, e tra gli aumenti che stanno facendo più discutere c'è anche quello delle multe, delle contravvenzioni. Le sanzioni previste per chi viola il codice della strada, per le quali è previsto un aumento proporzionale all'indice Istat dei prezzi al consumo, dovrebbero infatti crescere di circa il 6%. Per poi non parlare di un'altra questione che ha tenuto banco in questi giorni e che riguarda i rincari dei pedaggi autostradali. Alcuni sono stati sospesi in alcune tratte, in altre tratte invece sono già stati varati, sono partiti appunto dal 1 gennaio, e sono altissimi. Insomma, automobilisti tartassati a 360 gradi. Noi oggi a Salva Danaio parliamo proprio di questo. Iniziamo questo inverno dei rincari concentrandoci su questo argomento, che approfondiremo con alcuni esperti, rispondendo come sempre alle vostre domande. Allora, avete appreso dell'aumento delle multe di quest'anno e soprattutto avete preso delle multe nel 2012? Allora, vi è già arrivato il verbale. Sapete quanto vi costerebbero in più con l'anno nuovo? 800 24 00 24, il numero verde che vi permette sin da oggi, perché naturalmente siamo in diretta, di commentare con noi i fatti del giorno, quelli che riguardano il nostro portafoglio, i temi appunto che riguardano le nostre abitudini di spesa e di consumo. Con noi quest'oggi per affrontare il tema multe il collega del Sole 24 Ore, Maurizio Caprino, che saluto. Maurizio, buongiorno, buon anno. Buon anno a tutti. Ti toccherà affrontare dalle pagine del Sole quest'anno argomenti scomodi, per la verità una questione che ti accomuna molti altri colleghi, per ci la verità, siamo abituati. Me compreso, esatto. Però insomma, l'automobilista, l'uomo al volante, la persona al volante è particolarmente suscettibile, per cui sicuramente questa novità della quale parliamo oggi piacerà davvero poco. E poi Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, l'associazione sostenitori ed amici della polizia stradale, particolarmente inviperito su queste novità. Biserni, buongiorno, benvenuto e buon anno anche a lei, anche se appunto mi rendo conto che non lo celebra, non lo festeggia molto bene. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, gli ascoltatori. Grazie. Maurizio Caprino. Allora, io ho già ricordato agli ascoltatori il numero per intervenire in diretta, ma come sapete bene, con l'anno nuovo non cambiano le nostre vecchie abitudini, quelle che vi danno l'opportunità di interagire con noi attraverso tanti canali. Ci potete scrivere dei messaggi, 349-238-6666, il numero per i vostri sms, ci potete scrivere delle mail, salvadanaio@radio24.it. Potete interagire con noi anche sui social network, su Facebook salvadanaio-radio24, su Twitter @salvadanaio24. Prima di parlare, ahimè, delle multe, parliamo però di borsa. Almeno da questo punto di vista l'anno parte invece con slancio, con grande entusiasmo. Davvero c'è stato un accordo al photo finish per quello che riguarda l'economia americana, che riesce ad evitare il fiscal cliff, ovvero il precipizio fiscale che con tagli alla spesa per 1.200 miliardi complessive ed incrementi delle tasse per tutti gli americani avrebbe portato il paese in recessione. Ci sono ancora tanti aspetti naturalmente da chiarire, da sistemare, da implementare, ma quantomeno un accordo di massima fra Casa Bianca e Partito Repubblicano c'è, e quindi con questa buona notizia il mercato europeo oggi festeggia, anche se gli operatori finanziari si sono già preoccupati questa mattina di esprimere una certa prudenza, perché questa è la prima reazione a caldo dei mercati sulle novità americane. Ma per le prossime settimane c'è da aspettarsi una certa volatilità sull'azionario, soprattutto in Europa, perché molti paesi saranno impegnati politicamente con delle campagne elettorali molto accese, Italia in prima fila, per cui nei prossimi 2-3 mesi per gli operatori ci saranno ancora molti movimenti in borsa e forse non saranno tutti positivi. Di fatto però oggi si parte bene. Parigi segna più 2,38%, Francoforte più 2,10%, Londra più 1,95%, Milano più 3,35% sul FTSE MIB. Milano sicuramente festeggia anche alle novità che arrivano da oltreoceano, le novità stelle strisce, ma festeggia soprattutto questa buona partenza dell'anno per il mercato obbligazionario, perché lo spread fra BTP e Bund poco fa è scivolato sotto i 290 punti base, con il rendimento del titolo decennale che è al 4,33%. Popolare dell'Emilia Romagna, miglior titolo della seduta, più 6,12%, UbiBanca più 4,85%, Intesa San Paolo più 4,85% anche in questo caso, Generali più 4,5 punti, più 4,43 per Mediaset, più 4 per Unicredit, più 4 per Mediobanca, più 4 per la Banco Popolare, più 4 per la Popolare di Milano. Insomma, qua chi più ne ha più ne metta, abbiamo dei rialzi molto significativi. Non c'è nessun titolo negativo a Piazza Affari, i titoli che guadagnano meno sono Parmalat più 0,85%, Diasorin più 0,99%. È partito bene l'anno anche per le borse asiatiche. La borsa di Hong Kong, Tokyo e Tokyo e la Cina sono chiusi, Hong Kong è aperta e ha festeggiato la prima seduta dell'anno con un balzo del 2,89%, portandosi sui massimi dal giugno del 2011. La borsa adesso la possiamo lasciare, andiamo però al tema di oggi, un tema che rischia di scaldare subito gli animi delle famiglie italiane, soprattutto degli automobilisti. Vigile, ancora una tramuta, no, non vede, ne ho già prese sei, mi vuole rovinare lei. Chi non rinuncia a vedere il bicchiere mezzo pieno potrà accoglierla come una buona notizia. Nel 2013 gli italiani saranno invogliati a guidare meglio e le nostre strade potrebbero quindi diventare più tranquille. Il motivo? Le multe per le infrazioni degli automobilisti con l'anno nuovo diventano più salate. E si tratta purtroppo solo di uno dei molti aumenti previsti con lo scattare del mese di gennaio. Il codice della strada prevede un adeguamento automatico al FOI, l'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie ed impiegati. Un parametro che, come ben sanno le famiglie e gli impiegati, che non sono certo molto contenti, negli ultimi mesi è salito notevolmente, arrivando a totalizzare a dicembre un aumento del 5,7%. È quindi questo il valore che, in automatico, determinerà l'aumento delle sanzioni automobilistiche. Ed è così che chi veniva pizzicato a parlare al telefono durante la guida e nel 2012 pagava una multa di 152 euro, nel 2013 ne dovrebbe pagare 161. Passare col semaforo rosso costerà 163 euro rispetto ai 154 dell'anno passato. Gli aumenti hanno scatenato un fronte comune di proteste tra ACI, associazioni dei consumatori, sindacati, che si stanno mobilitando per far sentire la loro voce. Nel frattempo, per non correre rischi, e non solo quello di pagare una multa salata, meglio evitare sorpassi azzardati, parcheggi in divieto di sosta e velocità troppo elevate. Vigile, vigile, ma vigile, vigile, ma vigile, vigile, ma va. Allora, intanto abbiamo scoperto che il cantante Biagio Antonacci è un pessimo automobilista, naturalmente speriamo di no, ma a giudicare da quanto confessa nella sua canzone, all'inizio ne ha già prese sei quest'anno Noi naturalmente scherziamo e chiaramente, come dire, cerchiamo di guardare il lato positivo della cosa. Questo nuovo aumento speriamo che rappresenti un deterrente ulteriore per gli automobilisti indisciplinati. Però certo che se consideriamo un po' tutte le questioni che riguardano chi guida, e qua non parliamo solamente di chi come me per esempio fa un uso normalissimo dell'auto, ma c'è gente che lavora con l'automobile, per cui rischia molto di più di cadere in situazioni che chiaramente lo portano poi a contravvenire alle regole del codice della strada. E allora, tante questioni aperte. Io vorrei cominciare subito con Giordano Biserni, presidente appunto dell'ASAS, per l'associazione ASAPS, Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale, perché ha preso una posizione molto dura, molto forte su questa questione. Questo aumento è un aumento che peraltro era previsto, va ricordato Biserni che siccome poi è molto facile cadere, come dire, nella condizione di chi ci si scaglia in questo momento contro il governo per tutte le misure prese, questo non è una delle decisioni contenute in nessuno dei provvedimenti dello scorso anno, né nel Salva Italia, né nel Cresci Italia e quant'altro. Questo è un aumento automatico che scatta ogni 2 anni, previsto dal codice della strada, ma come dire, voi avete detto magari in questa circostanza si poteva anche congelare. Quanto peserà sulle tasche degli automobilisti questa novità? Beh, intanto cominciamo col dire, dare una precisazione: nel servizio si parla del 5,7%, l'aumento è del 5,4%, non cambia molto nella sostanza, perché poi le sanzioni, forse c'è qualche arrotondamento a un euro. Quanto peserà? Beh, pesa soprattutto nelle tasche dei meno abbienti, di quelli che hanno difficoltà, perché vede, già oggi, dalle indicazioni che ci arrivano dalla periferia, dai nostri referenti della polizia stradale, della polizia locale, in tanti, in certe zone ormai non pagano, quasi il 50%. È di insoluti contravvenzionali, ma non perché ricorrono al giudice di pace o al prefetto, ma proprio perché qui non ci sono più quattrini. Allora, questa è una politica che noi non condividiamo come ASA, perché recentemente, nelle ultime modifiche, parlo di quelle del 2010, abbiamo limitato i punti tagliati a chi per esempio supera la velocità di un certo margine, e nel contempo però andiamo sempre in automatico ad aumentare le sanzioni. Mi lasci ricordare che siamo al decimo aumento dal 92 più 59% dalla sanzione base, e questi automatismi, è vero che è previsto dal codice, come lei ha detto, dall'articolo 195, ma sono tante le cose previste che non sono state annullate. Per esempio, l'automatismo dell'aumento delle pensioni era previsto dalla legge, però è stato accantonato. Quindi, volendo, uno sforzettino su un versante, quello dell'automobile, che già è vessato in maniera assoluta in termini di assicurazioni, accise della benzina, pedaggi autostradali, eccetera, un segnale poteva essere fatto, e noi su questo abbiamo fatto una specifica proposta, peraltro. Non so se lei posso dirla. Poi diciamola, già che c'è Biserni, poi naturalmente la volevo subito un po' stimolare anche a guardare la questione da un punto di vista diverso, certo. Nel senso che io quello che ritengo è che chiaramente nel momento in cui qua, con questi aumenti che sono automatici, comunque sono sanzioni che vengono combinate a persone che non si comportano correttamente al volante, non vedo perché ci debba preoccupare un aumento, anzi magari questo è un incentivo a stare ancora un po' più attenti. Io poi capisco il suo punto di vista, avrei visto, come dire, con maggior perplessità se fossero arrivati degli aumenti ulteriori, anche perché poi tra l'altro arriveranno, poi magari facciamo anche una rosa complessiva di tutte le ricadute economiche che quest'anno ci saranno, diciamo, sugli automobilisti, perché ne arriveranno per l'assicurazione, e speriamo che non ci siano altri problemi che porteranno anche ad aumenti delle accise, perché lì, come dire, si colpisce anche abbastanza rapidamente. Quindi un pochino sono stupita anche di questo vostro di questa vostra presa di posizione così forte. Allora glielo spiego. Intanto, noi abbiamo preso posizioni molto forti sui cieli bui, sulle gomme obbligatorie invernali, e quindi noi cerchiamo anche di interpretare una sorta di lista civica della sicurezza stradale, e credo che ce ne siano i motivi. E se vuole glieli spiego anche sinteticamente. Allora, questo aumento delle sanzioni si inquadra in un contesto che è già molto molto pesante. Andrà, secondo noi, ad alimentare soprattutto le sanzioni, quelle in elettronica, le cosiddette accertamenti a remoto, un terminaccio molto brutto, vuol dire legacy, autovelox, tutor, T-Red, ZTL, eccetera, ma difficilmente va a incrementare quello che è il discorso sulle sanzioni, quelle che solo la presenza fisica delle pattuglie possono accertare, voglio dire il mancato uso delle cinture, il cellulare alla guida, e tutte queste sanzioni, se noi non riportiamo più pattuglie sulla strada, poi le perdiamo. Quella là si chiama pesca a strascico, serve per fare semplicemente cassa, perché il ragionamento che noi abbiamo voluto fare come associazione è questo: ma scusate, noi negli ultimi 10 anni come ci siamo comportati? comportati in termini di incidenti stradali. Allora, se andiamo a vedere, la proposta che facciamo è questa: congeliamo gli aumenti per il fatto di dare una sorta di premio di produzione agli automobilisti. Per quale motivo? Perché noi, guarda caso, negli ultimi 10 anni abbiamo fatto meglio della media europea. La media europea del calo delle vittime degli incidenti è stata del 44,5 negli ultimi 10 anni, noi abbiamo fatto 45,6. Nel 2011 l'Italia ha visto, per fortuna, diminuire il numero delle vittime della strada del 5,6%, la media europea del 2,8. Allora, il ragionamento che vogliamo fare è questo: ma se c'è stato questo risultato grazie alla polizia stradale, potremmo cipare, forze dell'ordine, carabinieri, grazie a un'educazione, una formazione, all'etilometro, bene, ma ci sarà stato anche un comportamento un pochino più corretto e più cosciente da parte del mondo dell'automobile. Ora vediamo di congelare una situazione che ha visto tanti congelamenti e tanti automatismi per altri versanti. Perché qui dobbiamo andare avanti all'infinito? Perché non è che poi serva tanto aumentare le sanzioni quando applicarle in maniera più puntuale e precisa, soprattutto quelle delle norme di comportamento. Mm-hmm. Questo è il tipo di ragionamento che abbiamo fatto. Abbiamo capito perfettamente, grazie Biseni. Adesso ritorneremo da lei, volevo però andare un attimo da Maurizio Caprino per sentire un po' da esperto del settore che cosa ne pensa, poi magari andremo ad una alle voci di aumento appunto del panorama sanzionatorio legato alle multe, e chissà chi rischierà di più, probabilmente chi naturalmente viaggia molto anche per lavoro e qualche volta per sbrigarsi, chiaramente supera con grande facilità i limiti di velocità. Qua si passa da 159 euro a 168 per quello che riguarda appunto la multa e il superamento di oltre 10 km orari e fino a 40 km orari. Maurizio Caprino, allora, automobilisti tartassati. Peraltro Biserni lancia anche una proposta che è abbastanza provocatoria, insomma diamo una sorta di premio di produzione agli automobilisti che in realtà non se lo vedono riconoscere neanche dell'assicurazione se sono dei conducenti virtuosi, figuriamoci qua se ci può arrivare un premio da un'altra parte. Sì, la vedo dura, anche perché poi dobbiamo ricordarci che questo regolamento automatico... Maurizio, ti sentiamo con difficoltà, questo sì. Era magari... ecco, pronto? Non so se era un cordless o che cosa, sì. Ti sentiamo un po' come se ci fosse la batteria scarica. Sì, allora diciamo che l'importo delle sanzioni... No, niente. Guarda Maurizio, riproviamo un attimo a ricontattarti perché il segnale era particolarmente disturbato, per cui siccome preferiremo appunto sentirti al meglio, adesso vediamo con Marco Lombardo appunto di recuperare il collegamento telefonico. Intanto volevo anche cercare di capire se stanno arrivando dei messaggi da parte degli ascoltatori. Vabbè, c'è una disabile che ci scrive, Clelia, quelli che lavorano con la macchina, quelli un po' disabili come me, Clelia, e vabbè, qua le sanzioni riguardano tutti. Faccio tantissimi chilometri al mese per lavoro e ho cambiato totalmente stile di guida, ci racconta Marco, per evitare multe. Arrivo tardi, non rispondo al telefono e faccio arrabbiare chi mi siede accanto perché vado troppo piano. Però sono 6 anni che non prendo una multa e faccio 60.000 chilometri all'anno, ci racconta Marco. Biserni, questo era un po' quello che le volevo dire io all'inizio, no? Certamente, questo è sicuramente il risultato di una maggiore coscienza, perché è chiaro che l'electronical tutor, per esempio in autostrada, ha disciplinato moltissimo i comportamenti, e questo sta dando dei risultati veramente eccellenti. Però noi dobbiamo calcolare anche la possibilità di cominciare a sanzionare quelle infrazioni che non sono visibili a distanza con il sistema dell'elettronica, eccetera, come ho detto prima. E non credo che possiamo arrivare poi all'infinito, perché vede, quando poi noi aumentiamo, come ha detto lei, la velocità da 152 a 168 euro, eccetera, non è che si spaventano i grandi come violatori sistematici che se ne strarifregano della violazione della norma, perché noi avremmo preferito un incremento del prelievo dei punti. Qui invece i punti vengono dati a go-go. Vogliamo ricordare che a luglio avremo tutti quanti, quelli che non hanno subito sanzioni nell'ultimo biennio, altri 2 punti, arriveremo a 30 punti. E qui c'è gente che continua a dire che questa macchina che guidavano paga regolarmente il proprio verbale, poi scopriamo che quel Mercedes, quel BMW ultima serie da 80.000 euro, guarda caso, lo guida continuamente il collaboratore filippino o il collaboratore albanese, e i punti vengono tolti praticamente a nessuno. Cioè, noi dobbiamo andare a incidere veramente là dove si fa male, soprattutto per il prelievo dei punti. Questo è un fatto che non viene toccato. Poi c'è una nota che volevo dire prima e non ho avuto modo di approfondire. Questo aumento del 5,4% che diventa l'ennesimo, poi si va a guarda caso a inquadrare con la modifica del codice che è stata approvata alla Commissione e che ora si spiaggerà purtroppo a causa dello stallo di certo. Che prevedeva, e che noi abbiamo salutato con molto favore, una diminuzione, uno sconto del 20% per chi avesse pagato la sanzione cash o entro nei primi 5 giorni, perché in pratica si andava in questo modo a smaltire molto lavoro burocratico, molto lavoro di notifiche, per cui mi viene fatta una sanzione, pago subito alla gente, oppure entro 5 giorni avevo questo sconto. Vedevamo in maniera strana il sistema binario: da una parte un provvedimento in gestazione già approvato dalla Commissione, meno 20% se, e dall'altra però l'automatismo che deve scattare continuamente, eccetera. Un segnale premiante anche da questo punto di vista, secondo noi, era sicuramente accettabile e possibilmente fattibile. Allora, ritorniamo a Maurizio Coprino. Maurizio, parla un po', facciamo un po' una prova audio. Ecco. Sì, adesso molto meglio, molto meglio. Allora, dove ti avevamo lasciato? Allora, dicevo, in realtà è dura pensare a una sospensione degli importi, sia perché la politica in questo momento non ha tempo, sia perché dobbiamo dire che questo adeguamento automatico era nato 20 anni fa per evitare l'effetto opposto, cioè che le multe diventassero delle burlette. Cioè, ricordiamoci che il vecchio codice della strada, quello del 59, non lo prevedeva, e quindi eravamo arrivati negli anni 80, peraltro dopo anni in cui l'inflazione galoppava a 2 cifre, eravamo arrivati con un divieto di sosta che costava solo 12.000 lire e la gente se ne faceva un baffo. Giustamente adesso... piuttosto che fare l'abbonamento ai parcheggi, naturalmente, era meglio rischiare di prendersi una multa con il divieto di sosta, vabbè, a parte gli scherzi. Esatto, no, ma in realtà era proprio così, la multa diventava una sorta di costo di produzione, quindi si è arrivati a questo adeguamento automatico e ci vuole una legge per tornare indietro, o perlomeno per sospenderlo. Come dicevo prima, la politica ha altri interessi in questo momento, pur essendosi dimostrata sensibile, come diceva Giordano Viterni prima, a queste esigenze di automobilisti, perché si stava pensando appunto a uno sconto per chi pagava entro 5 giorni. Si è mostrata la politica anche sensibile negli ultimi anni, perché per esempio è stata allargata la possibilità di rateizzare, diciamo, per le famiglie disagiate, è stata introdotta la rateizzazione delle multe con importo superiore ai 200 euro. Personalmente io dico che comunque l'importo delle sanzioni, cioè non è tanto per questo 5,4% che 5,4% che ci saranno problemi, la cosa va sommata, come dicevi tu, agli altri rincari, ma soprattutto c'è una tassa occulta che noi paghiamo a molti comuni, cioè il fatto che sono aumentate, diciamo, da un paio d'anni le cosiddette spese di notifica, cioè improvvisamente andare ad annotare chi è il proprietario di un veicolo, sviluppare un fotogramma di un'infrazione, stampare un verbale, costano di più. È un aumento, devo dire, per la maggior parte dei casi surrettizio. Non c'è alcuna norma che impone un tetto, per cui voglio dire, se uno per una infrazione di 30 euro ne paga quasi altrettanti come spesa di notifica, oggettivamente il problema mi sembra più quello, anche perché è occulto e nessuno ne parla. Allora, ci fermiamo adesso perché abbiamo il primo blocco pubblicitario e poi andremo anche ai nostri ascoltatori, perché figuriamoci, quando parliamo di automobilisti, quando ci mettiamo tutti alla guida, non so perché si scatenano i nostri peggiori istinti, e naturalmente sentiremo adesso un po' cosa ne pensano i nostri ascoltatori. C'è Alfredo da Napoli, Marco da Monza, Domenica da Ravenna. Ci sentiamo tra pochi istanti. Salva Danaio. Che c'è? Che c'è? Ah, niente, stavo provando il fischietto, vada pure. Vada, vada! Buongiorno, lei non ha visto il divieto di sosta? E lei non ha visto che il divieto è dalle ore 8 alle ore 14? Oi là. Lei c'è il triangolo? Sì. Eccolo. Favorisca la patente, per favore. Come mai non hai il bollino? Il bollino dell'ultima pagina. Non lo sa? Domando scusa sia per il primo sia per il secondo errore. C'era a spostare la macchina di prima! La Fiscalissimo Vigile di Alberto Sordi, un film indimenticabile del 1960 e sicuramente magari chissà in quanti di noi, se non rispetteremo le regole del codice della strada, rischieremo di trovarci appunto nei prossimi mesi con chiaramente chi ha il compito di controllare la regolarità del nostro comportamento, e magari troveremo dei comportamenti appunto così altrettanto fiscali come quello di Alberto Sordi, giustamente, però noi sappiamo bene che abbiamo a che fare con professionisti che conoscono bene le regole, non sbagliano e non ci contestano comportamenti così tanto per fare. Detto questo, questa mattina quello di cui parliamo degli aumenti previsti per quello che riguarda appunto le multe a partire dal 1 gennaio. Attenzione, perché se superate il limite di velocità rischiate di pagare 168 euro dai 159 precedenti. Se attraversate e se passate con il semaforo rosso, attenzione, perché se prima rischiavate di vedervi comminata una sanzione da 154 euro, adesso arriva a 162. E poi il mancato uso delle cinture di sicurezza, 80 euro dalle precedenti 76. Se venite pescati a guidare con il cellulare all'orecchio, si va da 152 euro della vecchia multa ai 160 attuali. Insomma, la rosa è piuttosto ampia. È un altro argomento che ha fatto scattare sull'attenti tutti gli automobilisti, non perché naturalmente sono arrabbiati, perché si sentono un po' tartassati, come diceva anche questa mattina uno dei nostri ospiti, Giordano Biserni, presidente dell'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale, insieme a lui anche Maurizio Caprino, collega del Sole 24 Ore. Tantissimi commenti degli ascoltatori, direi di sentirne subito un paio e comincerei con Marco da Monza, perché noi abbiamo parlato così fino a questo momento dell'automobilista medio e appunto delle sanzioni, come dire, che possono arrivare per le contravvenzioni, per i comportamenti non corretti più diffusi. Marco però in realtà voleva avere qualche informazione in più relativamente ai mezzi pesanti. Marco, buongiorno, benvenuto e buon anno, il nostro primo ascoltatore dell'anno di Salvadanaio. Allora, buongiorno. Buongiorno. Buon anno a tutti quanti. Grazie, ci dica. Io volevo solo fare due osservazioni. Una è, se loro hanno tirato, i signori del governo ovviamente, hanno tirato via l'adeguamento alle pensioni o agli stipendi, no? Non vedo perché devono fare l'adeguamento e questo l'abbiamo già detto, Marco. L1, okay. Questo era già previsto, comunque non è questo scatto automatico di cui parliamo questa mattina non è contemplato nelle misure del governo recenti, questo va detto, sono vecchie disposizioni appunto del codice della strada, quindi era qualcosa che era già in vigore, però giustamente si poteva congelare. Marco, prego. Secondo te, l'altra osservazione era che a volte serve da parte delle forze dell'ordine che sono preposte a controllare il traffico, cioè anche un pizzico di buonsenso che non c'è scritto sui codici ovviamente, però si tratta di valutare la manovra, l'infrazione per quello che è. Certo, Marco, io la interrompo solo un attimo, perché se ha avuto modo di sentire prima Giordano Biserni, il tema è che magari l'operatore della strada, il poliziotto stradale, il carabiniere, il vigile urbano, forse l'atteggiamento di buonsenso lo possono anche adottare. Più preoccupazione c'è per quelle sanzioni che scattano automaticamente se appizzicarti l'autovelox, capisce Marco? Infatti a me è capitato una cosa di queste, e già come autista di conduttore di mezzi pesanti io ho già il raddoppio della sanzione per essere al volante di un mezzo pesante, è questo che voglio dire. Se diciamo che la sanzione era 100, io ho sorpassato su una tangenziale che tra l'altro è tristemente nota perché la Milano Mela, e ci sono state un sacco di polemiche sui limiti di velocità su quella superstrada, anche mi sembra una trasmissione Striscia Notizia, hanno fatto 2000 multe in un giorno quanto ho capito. Sì. Cioè, se come si dice, l'infrazione è già raddoppiata, se c'è ancora, ovviamente l'adeguamento ci sarà anche per i mezzi pesanti. Marco, mi vedo costretta ad affidarmi ai miei esperti. Giordano Biserni, riusciamo a rispondere all'ascoltatore? sì, per quanto riguarda le cose che ha detto sul congelamento, sul congelare le somme, quello che avevamo detto, sì, è vero che come si dice che il provvedimento è già previsto dal codice della strada, quindi in automatismo, ma anche gli altri erano previsti da norme vigenti, però sono state modificate. Quindi per quanto riguarda il buonsenso, il ragionamento che facciamo prima è purtroppo legato agli automatismi delle sanzioni. L'autovelox, il tutor, la ZTL e il sorpassometro, laddove è previsto, il T-RET, che parlo di quello strumento che verifica l'attraversamento con il semaforo rosso, per carità, sono utilissimi, ma non è che ragionano poi tanto come dicevamo prima, per cui questi aumenti ci saranno e come diceva Maurizio Caprino, abbiamo dimenticato di dire anche una cosa sui costi delle notifiche, nessuno ne ha parlato, ma io stamattina ho ricevuto dalle poste la nuova tabella degli importi delle spese postali che modificano tutto quello che riguarda l'espedizione della nostra associazione. Quali novità ci sono? Gli aumenti, una lettera passa da 0,60 a 0,70, mi pare che sia un 13% in più, non lo so, nel silenzio quasi totale, così vale per le raccomandate. Questo cosa significherà, e parlo anche con Maurizio, che qui aumenteranno, oltre che il 5,4, anche le spese di notifica, e queste vengono fatte un pochino, come devo dire, silenziosamente e in maniera autonoma da ogni ente, dice vabbè, 3 euro in più, 4 euro in più per la notifica, questo e quell'altro, qui diventa un pozzo di San Patrizio. Il ragionamento che volevamo fare è che fermiamoci un attimo, ragioniamo. Io mi rendo conto che le sanzioni nel tempo hanno rischiato di diventare, inflazionate, però voglio ricordare una cosa, nel 92 un divieto di sosta costava 50.000 lire, erano 25 euro, oggi è 41 euro. Da 39, esatto, quindi attenzione a dove parcheggiamo. Ma mi fa sempre molto sorridere, non c'entra molto col ragionamento che abbiamo fatto fino ad ora, Biserni, che lo strumento di rilevazione delle infrazioni si chiami come un dinosauro, il T-Rex, e questo già forse la dice lunga, no, insomma, è sul sistema. T-RED. Red, esatto, però sembra quasi appunto niente. Andiamo ad Alfredo da Napoli. Alfredo, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, buon anno. Altrettanto, buon grazie. Anno sì. Io volevo dire due cose rapidamente. Uno, che secondo me sulla questione dei limiti di velocità si parla, dal mio punto di vista, è una vera e propria istruzione stradale. Perché il concetto di base dovrebbe essere che si fa sicurezza. Eh sì, infatti. E io vorrei sapere, limiti che io vedo normalmente a 40-50 km/h con le macchine che abbiamo oggi, ma che rappresenta? Io faccio una strada che vado da Napoli a Formia continuamente. È una strada che ha limite tra 50 e gli 80. Già non capisco la differenza. È una zona molto. Ma è una zona abitata, è una zona con molte case lateralmente. Alfredo, per quali motivi ci sono dei limiti così stringenti su quella strada? Ma che guardi che andare a 50 km/h su una strada che è larga 40 metri, io riesco a farla soltanto se metto la seconda. Io non capisco dov'è la sicurezza, cioè io ho una macchina che costa di un certo tipo, che ha certi marchigi di sicurezza, e tra l'altro l'altra cosa che non capisco è perché cambia il comune e il limite passa da 50 a chilometri, a 80 km/h, la stessa strada. La stessa strada, magari nel giro da un metro all'altro, da un chilometro all'altro, appunto cambia il limite di velocità. Alfredo, lei ha messo il dito su una questione che anche, credo, Domenica da Ravenna voglia affrontare. Domenica, buongiorno. Buongiorno, sì, in effetti è la stessa questione. Perché io abito a Ravenna e percorro quotidianamente, anche più volte al giorno, la statale 16, Ravenna-Rimini, per capirci, e da Ravenna fino a Cesenatico c'è il limite dei 50, strada a doppia corsia con spartitraffico e quant'altro, stessa tipologia di strada. Da Cesenatico a Rimini c'è il limite dei 110, da Ravenna a Cesenatico il limite dei 50, no, c'è un'incongruenza, e come dicevo con la ragazza che mi ha risposto, quando sei fra due camion ti viene proprio il panico, magari ne hai uno davanti, uno dietro, l'altro che ti sta sorpassando, perché anche volendo non ce la si fa ad andare ai 50, non è matematicamente possibile, uno vuole andare, rispettare il limite, perché viaggiando per lavoro tutti i giorni, a me personalmente prendere delle multe scoccia in una maniera. E vorrei ben vedere, poi adesso scoccerà sempre di più. Domenica, abbiamo capito anche la sua considerazione, ancora una volta, come dire, un po' avevo avuto un approccio rispetto alla questione che volevamo affrontare da Alice nel Paese delle Meraviglie. A tante questioni a volte non ci si pensa, effettivamente lo avevo fatto anche io. Ci sono dei tratti stradali che hanno dei limiti che sono assolutamente inaccettabili, inadeguati. Maurizio Caprino, gli ascoltatori hanno ragione, per cui chiaramente in questi tratti chissà che cassa farà il comune interessato, no? Approfittando anche delle novità. Sono in parte questo, in parte il fatto che non si riesce a fare qualche piccolo adeguamento che sarebbe necessario per avere un limite più accettabile, alto. Diciamo purtroppo, o per fortuna, secondo i casi, noi abbiamo da una ventina d'anni delle cosiddette norme di costruzione delle strade che sono più puntigliose, dettano dei requisiti più severi, e questo per esempio ha portato al proliferare delle strisce continue, perché con queste nuove norme bisogna calcolare gli spazi in maniera molto larga, come se un trattore dovesse superarne un altro, per capirci, e questo chiaramente ha portato in moltissimi tratti a far scomparire le strisce tratteggiate e a farne mettere una continua. Questo ovviamente mette in sicurezza l'ente proprietario della strada, non mette in sicurezza l'automobilista o comunque l'utente della strada, perché poi alla fine si sorpassa lo stesso, come abbastanza ovvio, e non si riesce a trovare una quadra. E poi ci sono degli autentici arbitri, perché per esempio noi abbiamo citato in queste telefonate delle strade statali fra le più pericolose in assoluto, però ci sono anche proprio autentiche bizzarrie. Se voi andate per esempio sul passo del Tonale, lì il centro abitato, chiamiamolo così, è metà in provincia di Brescia e metà in provincia di Trento, bene, lo stesso centro abitato passa, andando dalla Lombardia al Trentino, il limite sale da 50 a 60 all'ora ed è esattamente la stessa strada. Esatto, era un po' la medesima incongruenza che si è verificata per la questione dei pneumatici da neve, quando è partito l'obbligo, non mi ricordo, ad inizio inverno, con certe città che praticamente lo prevedevano solamente per l'Interland ma non magari per il centro città, situazione di Milano, se non mi ricordo male, Maurizio, no? Era una situazione del genere. Sì, ma addirittura in alcuni comuni ci sono addirittura delle strade particolari dove c'è una certa pendenza, per cui lì il comune aveva detto che ci volevano sia le gomme invernali sia le catene. La verità vera è che ovviamente l'Italia è molto molto varia, non solo nella testa delle persone ma anche nella conformazione del territorio, quindi ci vuole semplicemente del buon senso. Non si può tentare di normare tutto, perché la norma ovviamente deve essere astratta, e non possiamo assolutamente andare calzanti a quello che succede. Più semplicemente dobbiamo avere più umiltà noi utenti della strada, perché per esempio, insomma, 30 anni fa se c'era la neve si stava in casa. Adesso usare l'auto è molto semplice, sembra come usare la lavastoviglie, e invece poi arrivano certe circostanze estreme che ci ricordano che purtroppo questo non esatto, è. Si quindi rimane dobbiamo anche bloccati, noi recuperare il timore della strada. Esatto, per ore e ore in autostrada con tutto il caos che è capito appunto nell'inverno invece di 2 anni fa. C'è un ascoltatore che scrive: che dire di quei vigili che guidano senza cinture e parlano al cellulare e magari passano anche con il rosso? Io non ne ho mai visti, magari ci telefoni, ce lo racconti, dove si comportano così? E altri ancora: ma perché tanti automobilisti si ostinano a guidare ascoltando, appunto parlando al cellulare? Quanto ci vuole ad acquistare un auricolare che costa appena 10 euro? Insomma, diciamo che per l'italiano, dice Piero da Verona, è chic trasgredire. Adesso andiamo a sentire invece gli altri suggerimenti per chi è in viaggio, tra poco. Salva Danaio. Piano, piano, piano, andate piano, il fondo è sdrucciolevole, piano, perché correte, piano, c'è la curva della morte, c'è il burrone, piano, peggio per voi, vi dico che se scivola, piano, piano. Bloccarsi tutti, lasciate passare la veloce macchina del signor sindaco, via, vada, vada pure tranquillo signor sindaco, tanti auguri. Vigile, È divertentissimo questo film, è la storia interpretata da Alberto Sordi del vigile, anzi del disoccupato Otello Celletti, che grazie ad un caso fortuito, praticamente suo figlio salva dall'annegamento il figlio di un assessore comunale, e grazie anche alla sua ossessiva insistenza riesce a farsi assumere come vigile motociclista del comune in un luogo imprecisato della provincia di Roma. Giordano Biseri, naturalmente oggi le professionalità sono ben altre, però c'è qualche ascoltatore che ci ha raccontato che anche qualche vigile non è che sia proprio, come dire, un modello di comportamento alla guida. Noi non abbiamo testimonianza, andiamo invece a rispondere. Senta, c'è Pietro su Twitter che ci scrive: previsto anche l'aumento del bollo auto? Non mi pare. No, non c'entra niente l'aumento della tassa di proprietà, che si chiama così per il momento. No, diciamo, per adesso per di questo momento non abbiamo avuta notizia, mai dire mai. Non è legato assolutamente a questo. Voglio rispondere anche all'ascoltatore sull'uso delle cinture, sì, cellulare da parte della polizia municipale o delle polizie in genere. Diciamo che le cinture e il cellulare non è un obbligo che non hanno le forze di polizia se in servizio o se sono in servizio di emergenza per quanto riguarda le cinture, e il cellulare ovviamente se è legato a condizioni legate proprio all'attività che svolgono, quindi l'obbligo non l'avrebbero. Noi ce lo sta segnalando anche un ascoltatore, però insomma almeno diamo un tantino di buon esempio. Lo consigliamo assolutamente, perché sono molte più le vittime delle forze di polizia per incidenti stradali che per sparatorie. Allora andiamo adesso agli altri ascoltatori all'800 24 00 24. Aldo dalla provincia di Pistoia, buongiorno, buon anno. Aldo, niente, ci ha salutato, si è stancato, andiamo allora a Mario da Chieti, buon anno anche a lei. Buon anno signora Deborah, buon anno a tutti quanti, tutti gli ascoltatori. Ci dica. Dunque, no, niente, io volevo soltanto dire che in Italia c'è una, non tutti naturalmente, tanti sono maleducati, quando si siedono dentro un'automobile diventano maleducati. Io ho preso, come ho detto la sua segretaria, nel 1969 la mia prima licenza di condurre in Svizzera, dove un'ora di guida la si insegnava come si deve, dove per fare gli esami mi hanno tenuto al volante un ingegnere almeno un'ora. Qui facevano, io sono stato testimone anni passati, di 5 minuti, 10 minuti, 2-3 ore di guida, e gli davano. Mario, io ho capito che per oggi stiamo parlando di sanzioni, e a volte hanno a che fare con un comportamento non corretto alla guida, a volte altre con altri aspetti. Per esempio, guidare con uno pneumatico che ha il battistrada usurato, se ci siamo pizzicati commettendo questa infrazione, chiamiamola così, prima pagavamo 80 euro, adesso ne paghiamo 84. Se uno magari non riesce perché ha un problema economico a cambiare le sue gomme, magari lo fa con un po' di ritardo, viene pizzicato e viene multato, questo non è indice di comportamento maleducato alla guida. Quindi la saluto solamente perché magari il suo commento, che noi di cui prendiamo atto e naturalmente condividiamo, non è totalmente attinente con il tema di oggi. Maurizio Caprino, volevo affrontare con te, volevo che ci aiutassi a spiegare ai nostri ascoltatori la questione dei pedaggi autostradali, perché qua dovevano aumentare praticamente tutti ad inizio anno, però per qualche tratta il governo ha sospeso, mentre per la media degli aumenti appunto che c'è stata di circa il 2,9%, alcune concessionarie di alcuni tratti volevano un aumento ben più corposo, perché dicono andremo incontro ad un anno che sarà molto ricco di investimenti per quello che ci riguarda. Ce la chiarisci un po' questa faccenda? Sì, allora annualmente le tariffe vanno adeguate, ci sono delle richieste che fanno le società, le deve vagliare poi il Ministero delle Infrastrutture, fino all'anno scorso era l'ANAS, adesso è direttamente il Ministero delle Infrastrutture, perché oltretutto manca l'autorità di regolazione dei trasporti, che è stata istituita soltanto sulla carta un anno fa, poi la politica si è incartata anche su questo, la politica e l'alta burocrazia si sono incartate anche su questo, però diciamo che probabilmente il governo quest'anno sentiva proprio per questo motivo di avere un po' la coscienza sporca nei confronti degli automobilisti, e quindi stavolta ha bocciato gli aumenti che erano stati proposti soprattutto da società di gestione del nord, parlo soprattutto della Milano-Torino e della Brescia-Padova, dove certi investimenti che i gestori dicono di aver effettuato diciamo devono essere controllati, bisogna vedere se sono stati effettivamente portati a termine, e il caso della Milano-Torino è abbastanza eclatante, i lavori sono in corso da 10 anni esatti, ma non se ne vede la fine, eppure non è in condizioni, insomma, siamo in piena pianura padana, in condizioni molto più facili rispetto alla Salerno-Reggio Calabria, per intenderci. Quindi questi aumenti proposti sono stati stoppati in attesa appunto di ulteriori approfondimenti. Su altre tratte invece sono stati chiesti appunto degli aumenti che il governo ha limato in sede di decreto di fissazione delle nuove tariffe, quindi abbiamo una situazione complessivamente meno penalizzante per gli utenti della strada rispetto a quello che era stato richiesto dai gestori. Va comunque detto che per i gestori gli anni prossimi saranno degli anni pesanti, soprattutto per i tratti montani. Infatti in Val d'Aosta abbiamo degli aumenti del 14%, perché c'è una nuova direttiva europea che ci farà stare tutti più sicuri in galleria. Non so se vedete, anche si cominciano a vedere girando delle gallerie con dell'illuminazione a LED anche sulla parte bassa, diciamo, della canna della galleria. Cominciano a vedersi anche dei bei guardrail finalmente anche in galleria sulle piazzole che ci sono nelle gallerie più attrezzate, che prima erano una trappola mortale per chi andava a sbattere proprio sul muro che delimita questa piazzola, perché era un urto frontale praticamente contro questo muro di cemento. Quindi tutto questo ovviamente costa, e il governo comunque ha riconosciuto questi investimenti, perché infatti appunto, come dicevo prima, in Val d'Aosta le autostrade sono aumentate di più. Questo va spiegato perché poi invece la politica locale, diciamo, ha delle alzate di demagogia che insomma non si sposano con la ragionevolezza. Allora, visto che vogliamo infierire fino in fondo, la percentuale del rincaro sul raccordo della Valle d'Aosta 14,4%, sul passante di Mestre 13,5% e sulla Venezia Trieste, per finanziare appunto la terza corsia, stessa percentuale. Allora, andiamo adesso ancora ad un paio di riflessioni degli ascoltatori prima di salutarci. Abbiamo ripescato Aldo dalla provincia di Pistoia. Aldo, buongiorno, buon anno. Buongiorno. Mi sento in tre situazioni. Molto del divieto di social in Austria paghi 20 euro più 2 euro di notifica. Sì. Addirittura c'è nel Gambino una strisciata computerizzata. Quando arriva la macchina. Aldo, si mette bene l'auricolare, il telefono, sperando che naturalmente non sia alla guida. Non abbiamo capito, tutto molto confuso, molto pasticciato, quindi vorremmo sentirla meglio. In Austria. No, niente, guardi, la sentiamo male, riproviamo. Riccardo da Venezia, buongiorno. Ah, buongiorno, senta, non trovavo giusto il fatto che dei ricorsi delle multe, che adesso praticamente si deve versare in anticipo il doppio della sanzione. Io sono un camionista, nel mio caso le sanzioni sono già raddoppiate come trasportatore, quindi io prendo magari 400 euro di multa, devo pagarne già in anticipo 800 per fare ricorso, magari. Una sanzione che non trovo giusto. Allora, per me che lavoro, sì. 800 euro certo. In anticipo sono tanti, capite? Biserni, le chiedo di commentare questo caso segnalato da Riccardo, ma gliene metto insieme un altro bellissimo. Joseph da Vercelli, buongiorno. La notte di Natale ho portato mia moglie in ospedale d'urgenza, poco dopo è nato nostro figlio. Con cautela a Novara ho passato alcuni semafori con il rosso. In caso di telecamere posso sperare che, vista la situazione, io non venga sanzionato? Biserni. Sì, no, può essere. Abbiamo la prova del misfatto. Può essere sicuramente sanzionato, però potrà invocare lo stato di necessità e quindi, nel senso 689, fare un ricorso dove spiegherà con debiti certificati che dimostrino questa condizione, che era immediatamente precedente, in concomitante alla sanzione del lieto evento della sua signora. Quindi, se nel caso dovesse arrivare questa sanzione, potrà fare ricorso proprio sottolineando questo aspetto, allegando ampia certificazione. Per quanto riguarda il discorso camionista, sì, per alcune sanzioni camionisti ci sono delle fiduzioni da dare, ma il ricorso in se stesso prevede un versamento di 37 euro in generale su una violazione normale. Poi ci sono delle condizioni particolari che riguardano il mondo dell'autotrasporto, legate anche soprattutto per infrenare certi fenomeni che riguardano soprattutto gli stranieri, i veicoli stranieri alla guida. Ecco, voglio sottolineare solo questo aspetto. Senta, gliene devo leggere un'altra che a me ha fatto molto sorridere. Tanto stiamo ormai concludendo la trasmissione, cerchiamo di concluderla con un sorriso, poi ricominciamo a piangere domani, perché parliamo dell'aumento della tassa sui rifiuti, quindi dell'introduzione della nuova TARES. Che dire delle pazze che guidano con tacchi vertiginosi e zeppe che tolgono sensibilità all'uso dei pedali? Ci segnala una donna, che è Marina da Milano. Biserni, se una donna viene pizzicata con il tacco alto, però mi sa che lì il vigile o il poliziotto possa fare ben poco. Sì. Però lei, infatti, perché da questo punto di vista il codice del 92 è rimasto un pochino orfano di una normativa più specifica che c'era prima. Forzando la normativa si può sanzionare prevedendo una difficoltà alla guida, ma con il ricorso spesso viene fatta franca. Qui servirebbe, per esempio, in una delle modifiche del codice, questa situazione andrebbe certificata e sanzionata in maniera molto puntuale. Chi va con un tacco da 12, di quelli che chiedono poi l'autorizzazione alla torre di controllo per cavarsi le scarpe, dovrebbe veramente essere sanzionato, perché è una condizione di oggettivo pericolo. Infatti, una persona intelligente, una donna intelligente. Ma io non so come facciano, guardi, io mi porto sempre dietro le scarpe da tennis in macchina sempre. Va bene, io vi ringrazio molto per essere stati con noi. Buon anno a Giordano Biserni, Maurizio Caprino per la loro collaborazione. Grazie, grazie a Roby Scaltriti in assistenza tecnica, Marco Lombardo per la collaborazione in redazione. A tutti di nuovo buon anno e chiaramente ci ritroviamo qua domani, ma io ci sono anche stasera a Focus Economia. Buona giornata a tutti.